è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:34, 800 24 00 24, il numero verde per chiamarci in diretta, gli sms al 349-238-6666, lazanzara@radio24.it. Andiamo a sentire i titoli del TG2. La strage alla stazione di Viareggio, i funerali solenni nello stadio della città, la presenza di Napolitano, il capo dello Stato, chiede che sia fatta chiarezza. Domani l'apertura del G8 all'Aquila, imponenti misure di sicurezza, primi arrivi dei leader mondiali a Roma, scontri all'università, fermati 36, no global, 10 arrestati. Presentata la terza enciclica di Benedetto XVI, la Caritas in Veritate è dedicata ai problemi sociali, lavoro dignitoso per tutti e l'economia non sia soltanto ricerca del profitto. Stupri di Roma, le analisi confermano il DNA lo stesso nelle ultime 3 aggressioni. A Bucarest arrestati 4 romeni, autori di una violenza di gruppo a Milano quasi 3 mesi fa. Dopo i funerali privati, fra poco a Los Angeles l'addio a Michael Jackson. Migliaia di persone davanti a star della musica e della televisione che renderanno omaggio al re del pop. E andiamo subito a sentire Studio Aperto. Fan in delirio dopo il funerale privato, la salma di Michael Jackson trasferita allo Staples Center per l'omaggio oceanico. Decine di star mondiali allo show Colossal di stasera: Mariah Carey, Lionel Richie, Stevie Wonder, Magic Johnson, Brooke Shields. Il mega show in diretta nello speciale di Studio Aperto subito dopo il telegiornale. Dolore e rabbia a Viareggio, oltre 25.000 persone per l'addio alle vittime del treno bomba. Giocattoli sulle barre dei bambini, maluri tra la folla, emozione per il canto di Bocelli. Presente il capo dello Stato Napolitano che visita i feriti e avverte, ora fare subito chiarezza. In arrivo all'Aquila i leader del G8, fermati vicino alla zona rossa 5 francesi con un furgone pieno di mazze di ferro. Scontri a Roma tra polizia e no global, 10 arresti. Tensione davanti all'università e all'ambasciata americana. Un quotidiano inglese scrive: presto l'Italia fuori dal G8. Frattini, sciocchezze, soddisfazione per lo storico accordo sul disarmo USA-Russia. Eccoci qui dopo i principali titoli di Studio Aperto. 18:36, 800 24 00 24, microfoni già aperti. E allora partiamo subito con i 24 secondi che stanno suscitando tante polemiche, tante discussioni. Sembra essere ripiombati a quelle polemiche, a quei dibattiti, a quegli scontri che c'erano, non so, 20, 30 anni fa, forse più. Il razzismo nord-sud è un coro che viene lanciato addirittura da un deputato, il deputato si chiama Matteo Salvini, come sapete, ad un raduno leghista di qualche mese fa. Un coro da stadio che magari chi frequenta i campi di calcio ha già sentito più volte. Sentiamo. E pensare che Salvini fa parte della stessa coalizione in cui c'è naturalmente Berlusconi, che avete sentito, che canta canzoni napoletane, appassionato di canzoni napoletane, con Apicella. Lo avete sicuramente riconosciuto. Traduzione per chi non avesse capito il senso di quel coro lanciato da Salvini insieme ad alcuni giovani padani. Ci sono richieste di dimissioni, di scuse, eccetera, eccetera. E addirittura se ne è parlato in Parlamento. Senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani. O colerosi, terremotati, voi col sapone non vi siete mai lavati. Questo è un coro lanciato e cantato da Matteo Salvini, deputato della Repubblica. Lascia a voi il giudizio, per me non c'è niente da dire, se non che queste cose non vanno fatte, punto. Poi forse c'è da dire qualcos'altro, ma abbiamo un'ora e mezza per parlarne. Cosa è accaduto in Parlamento? Sentite l'arrabbiatissima Alessandra Mussolini, deputato del PDL, dunque alleato della Lega e però napoletana veracissima. Quello che noi abbiamo visto, noi deputati campani e napoletani, su YouTube, su un sito di Repubblica, lo possiamo dire, è vergognoso. C'è il disprezzo nei confronti dei napoletani e quindi io sarò molto breve, perché non servono le scuse. Issa sa da sciacqua bocca quando parli nuia, e per dirglielo porterò al suo scranno, Presidente, questo. Il disinfettante. La prego, mi conosci per cortesia, possono farsi consegnare gentilmente a quello che non so io, quel barattolo non ve lo identificare. Berlusconi and Apicella, che cantano in napoletano. E andiamo a una delle reazioni alla Camera dei Deputati. Avete sentito quella molto colorita di Alessandra Mussolini. Reguzzoni della Lega Nord, che difende Salvini, lo difende in questo modo, è un coro da stadio, più o meno la stessa espressione usata questa mattina all'Ansa da Salvini, che dopo sarà il nostro ospite, se lo troviamo per telefono, è sempre la premessa necessaria quando si annuncia un ospite per quello che riguarda la nostra radio, in particolare la nostra trasmissione. Dicevo, Reguzzoni lo difende così. Sarò lapidario, perché ho più volte espresso che non condivido che su fatti di minor conto vengano create delle situazioni di allarmismo, perché poi l'allarmismo produce di per sé altri problemi. Questa volta ha fatto l'ennesimo errore, perché è un fatto privato, cioè io quella canzone non la conosco, ma potrei citarla a memoria perché l'ho sentita 100 volte negli stadi. Non posso citare a memoria le canzoni che parlano dei milanesi, ad esempio, dei polentoni, però quello che è importante sono gli atti che vengono fatti, la legittimazione di un parlamentare della Repubblica lodando gli elettori, non certo le discussioni all'interno di quest'Aula. Amore mio, mon amour. Vabbè, insomma, la situazione è questa: un deputato della Repubblica si può mettere a intonare cori da stadio ad un raduno leghista, certo, non è che lo fa dentro casa sua, lo fa in un'occasione, diciamo, semipubblica. Sentiremo dopo le sue spiegazioni, già anticipate all'Ansa questa mattina. Non credo che la Mussolini abbia trovato Salvini oggi alla Camera, perché era all'Europarlamento. In questo momento Salvini ricopre 3 cariche, che una di deputato, l'altra di europarlamentare, dovrà rinunciare a una di queste due, l'altra di capogruppo della Lega al Comune di Milano. È consigliere comunale, deputato della Repubblica ed europarlamentare. Può succedere anche questo. 18:42, 800 24 0024. D'altra parte, quella dei canti intonati da leghisti non è una novità. Qualche tempo fa, credo fosse 4 anni fa, più di 4 anni fa, ci fu una polemica perché alcuni ministri leghisti, all'epoca c'era ancora il primo governo e il secondo governo Berlusconi, andarono ad un raduno a Lugano in Svizzera e cantarono, furono presenti ad una specie di manifestazione in cui le voci erano queste. Il tricolore. Poi ci fu una manifestazione davanti al Parlamento, era il 2004, con il ministro leghista Castelli, ministro della giustizia, il quale si mise a saltellare insieme ad alcuni giovani padani "Chi non salta italiano è", un'altra canzone da stadio. Le considerazioni da fare sono tante: il tipo di politica che fa la Lega, il tipo di elettorato che prende, il modo in cui si raccolgono i voti, eccetera eccetera. Direi di partire subito con un ascoltatore, però. Luigi da Brescia, buonasera. Buonasera Cruciani. Sono Papillo, hanno sbagliato a chiamarmi Luigi. Oh, Papillo, perché, perché fa così Papillo? Dai, perché se no non mi fate entrare in diretta. Ma non si può entrare in diretta quando uno vuole, ci sono delle regole, ci sono delle regole, caro Papillo, ci sono delle regole. No, non mi fa. Lei non le vuole rispettare. Non mi chiudo la comunicazione. Beh, perché lei avrà fatto qualche scorrettezza nei nostri confronti, altrimenti non l'avremmo bollata. No, scorrettezze non se ne sono fatte. Mi fa parlare Cruciani, visto che mi sono un minuto, poi c'è il traffico, un minuto, Papillo. Non mi può chiudere col traffico. Un minuto, Papillo, un minuto le do. Un minuto, allora, visto che quello del traffico della pubblicità. Papillo, lei già sta consumando secondi. Sto consumando, va bene. Il traffico sta consumando secondi ancora. Va bene, allora della Lega di Salvini, ma lei crede razionalmente che gli faranno qualcosa a Salvini che lo obbligheranno a dimettersi? Ricordiamoci di quello che la Lega ha fatto in altre occasioni. Ma perché secondo lei si dovrebbe dimettere? Secondo lei si dovrebbe. Assolutamente sì, ma non solo per questo, sono moltissimi motivi. Allora, tanto cosa ci siamo passati da deputati parlamentari europei italiani che sia condannati per mafia, per corruzione. Vabbè, questo non c'entra nulla. No, c'entra. Non c'entra niente. No, c'entra. Mancava la categoria degli ultras da stadio. Adesso i prossimi cosa eleggiamo? I pirati della strada o quelli che fanno le risse in discoteca? Perché abbiamo un po' tutte le categorie negative. Gli ultras da stadio non è male. Chiudiamo con questo. Lei ha fatto una battuta carina, Papillo. Non si dilunghi in cose che non c'entrano. Però le Cruciani, il traffico. Poi, traffico. Traffico. Ciao Papillo, traffico. E voglio che te voglio sulla te. Tu stai qua, non sa c'è caccia fa, si dà già fa, senti che sta canzone quando tu passavi sto guaglione sul tanto anno fa, dicendo. Berlusconi and Apicella che parlano napoletano in una delle tante canzoni. Ripeto, Salvini fa parte della stessa coalizione, ma questo l'abbiamo già detto. Qualcuno mi chiede giustamente chi è Paolo Papillo, perché io l'ho chiamato Papillo, cosa fa? Riesce a telefonarci cambiando numeri di telefono, eccetera eccetera. Papillo è il disturbatore delle radio, ogni tanto dobbiamo subirlo, quello che qualche giorno fa è intervenuto così a Radio Anch'io, Radio 1, sentite. Onorevole Buonaiuti ripete l'ordine di scuderia come un pappagallo, perché ripetono sempre le stesse cose, che è gossip, dove in un paese dove ci sono migliaia di famiglie in difficoltà, migliaia di operai che hanno perso il posto di lavoro, un presidente del consiglio che va a puttane lo si chiama gossip? Marco, però c'è modo di linguaggio, si possono chiamare in un'altra maniera, non facciamo i moralisti e abbiamo sempre paura di dire le cose come stanno. No. Non è gossip, riguarda la nazione questo. Marco, in un'opportunità, no, in un altro paese civile l'avrebbero fatto dimettere. Marco, vabbè, insomma, la cosa straordinaria è che poi avete sentito Marco da Prato questa sera, Luigi non so da dove, da Bergamo, non mi ricordo da dove, e poi cambia anche la voce quando parla con i centralini, perché naturalmente la voce la riconosciamo, la riconoscono tutti, insomma, un genio assoluto. A me sta anche simpatico, però fa troppo la vittima. Alessandra Mussolini in diretta dalla Camera dei Deputati, eccoci qui. Onorevole Mussolini, io sono in Parlamento, quindi si sente un po' di confusione. Come al solito, ma va bene lo stesso. Senta, ma alla fine quella che cosa voleva consegnare a Salvini alla Camera oggi? Consegnare il disinfettante con le fessette, perché lui quando parla dei napoletani si deve sciacquare la bocca, perché ha detto delle cose ingiuriose, ho visto il video, sì. E quindi c'era disprezzo in questa canzoncina, questa canzonetta che hanno fatto, ed era giusto rimarcare questo. Io prima l'ho fatto in italiano, poi gli ho fatto la battuta in napoletano, stata sciacquavo prima di parlare di noi, cioè prima di parlare di noi, dei napoletani si deve sciacquare la bocca, e poi gli ho consegnato, però fermata purtroppo dai commessi un po' energumeni, mi hanno bloccato, sennò sarei arrivata fino a sto. Senta, onorevole Mussolini, ma insomma lui ha reagito in questo modo, era a Bruxelles, poi tornerà in Italia, dopo l'avremo collegato per telefono, ha detto sono cori da stadio, la politica non c'entra. No, assolutamente no, non sono cori da stadio, quando è uscito è diventato un fatto pubblico, quindi occorrono delle scuse, bisognava prendere la parola in Parlamento su questo ed è stato fatto anche dai gruppi dell'opposizione. Senta, ma il presidente Fini che ha detto? No, il presidente Fini purtroppo non c'era. Presiedeva in quel momento Leone, e quindi c'è stato questo, diciamo, questo piccolo scontro, ma in fondo ci voleva. Senta, ma insomma, che deve succedere adesso? Deve chiedere scusa? Che deve fare secondo lei il povero Salvini? Ma Salvini è un personaggio così. E purtroppo oggi poi non è venuto, è venuto in ritardo, non l'ho visto, quindi gli volevo consegnare questo disinfettante con le salviette sul banco, lasciarglielo lì, e lui assolutamente deve chiedere scusa per le parole che ha detto, perché sono veramente piene di disprezzo, e questo non se lo merita nessuno. Noi siamo italiani, per di più napoletani, io sono nata a Roma ma napoletana d'adozione, quindi nessuno deve permettersi di dire queste cose. Sì, ma insomma, senza entrare nel merito, perché insomma le canzoncine che purtroppo ci sono negli stadi, è vero che ci sono negli stadi, si commentano da sole. No, dico, le canzoncine purtroppo ci sono negli stadi e si commentano da sole. Il problema è che un deputato della Repubblica si mette, come dire, a fare il verso ad una, o a ripetere una canzone che si sente ogni tanto tra qualche estremista allo stadio. Questo è il punto fondamentale, credo, no? E vabbè, la Camera è così, e i collegamenti vanno e vengono. Andiamo alla Spezia da Massimo. Massimo? Pronto? Sì. Pronto? La sentiamo, dica. Grazie Cruciani. Ma io ero in macchina e stavo guidando l'autostrada e ho sentito dei funerali di Viareggio. Tra l'altro Viareggio è distante pochi chilometri da noi. Noi abbiamo alla Spezia un gasificatore che se dovesse avere una perdita salta tra la città, perché purtroppo questo gas una volta a contatto con l'aria aumenta di 120 volte. Quindi è una disgrazia che ha colpito molto... più vicini si è e poi più si è colpiti. Quello che sono rimasto perplesso, se devo trovare un aggettivo, è la spettacolarizzazione che è stata fatta. Cioè, vabbè, il canto di Bocelli ci sta anche, ma i mega schermi, cioè i mega schermi come una partita di calcio. Cioè, quello è un dolore che se uno vuole partecipare, non è che deve vedere le personalità che sono sfilate lì. E l'idea che venga messo un mega schermo per seguire questa cosa... veramente mi ha scioccato, ma adesso io sono ipersensibile, però mi sembra veramente che andiamo verso un degrado mediatico che è sconvolgente. Questa è, per quello ho sentito così, visto che sono chiacchiere da bar quelle che si fanno, ma in senso positivo. Alla sua trasmissione ho sentito così il bisogno di chiamarvi e sentire anche. Sì, anche no, io credo però che la presenza del capo dello Stato, la voce di Bocelli, l'omelia, la folla, la partecipazione non siano cose negative, non siano che possono essere classificate come spettacolarizzazione di un evento luttuoso. Non credo proprio. Mega schermi? No, ma i mega schermi, sa, evidentemente non c'era la possibilità, c'era una grande folla che voleva partecipare e per evitare assembramenti e per evitare problemi uno mette i mega schermi. Uno non partecipa, non è che deve dare il mega schermo napolitano, ma per dire. Sì, ma i mega schermi perché lei associa i mega schermi a un concerto, a una partita di calcio. Ho capito, però è anche un modo per regolare l'ordine pubblico. La ringrazio Massimo di questa telefonata. Allora, i 24 secondi di Salvini ancora. E Matteo Capogruppo, e Matteo Capogruppo. Senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani, sono poverosi, saremo stati, e poi cosa volerò, siete mai lavati. Vincenzo da Napoli, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Niente, volevo intervenire su questa questione di Salvini. Sì. Io da napoletano mi sento offeso veramente, perché fin quando si parla di stadio e si sta nello stadio, forse tutti i cori sono ammessi. Per me non è così, nemmeno allo stadio. No, stando nello stadio voglio anche stando nello stadio come dice lei, non sono d'accordo, messi, certo. Con lei sono pienamente d'accordo con lei. Si immagina alle porte dello stadio. Allora vorrei dire se non vado errato pare che sia diventato pure eurodeputato. Sì, da poco, sicuro. Sì, rinuncerà poi probabilmente. Comunque. Quindi ma secondo me è indegno di sedere nemmeno sulle scale della chiesa, all'esterno, non all'interno, il suo dottor Salvini, se dottore è, perché deve sapere che a Napoli, Napoli non è la città che si vede, Napoli è una città storica, c'ha cultura, c'ha storia, c'ha tutto. Okay. Quello che evidentemente i signori padani si sognano, forse ce lo invidiano, e se parlano parlano per invidia. Se parliamo di pulizia, Napoli il sapone l'ha inventato e poi l'hanno portato a Milano. Se mangiano la pasta è perché l'hanno inventata a Napoli. Sì, Vincenzo, adesso forse sulla polizia prima di fare lo stupido qual è? Sì. Perché un eurodeputato, un parlamentare, se non è stupido, certe bravate non le fa. Quindi potrebbe tranquillamente documentarsi. Ma non è questione di documentarsi, Vincenzo, purtroppo qui non è questione di documentarsi, perché non si deve entrare nemmeno nel merito della puzza, del colera, dei terremoti e del lavaggio, diciamo, e della pulizia. Non è questione di merito, è una questione di un deputato che ripete uno dei cori che si sentono in curva in Italia. Scontro tra governo italiano e stampa estera. Il Guardian: l'Italia rischia l'esclusione dal G8. Frattini: solo buffonate. Franceschini: c'è tanto da dire, ma rispettiamo la tregua chiesta da Napolitano. Polemica per un coro anti-napoletano del leghista Salvini. G8 ad alta tensione a Roma, scontri con la polizia blindata Piazza Barberini all'Aquila, fermati 5 francesi con mazze e bastoni. Presentata l'enciclica sociale di Benedetto XVI, più etica nell'economia, diritti per gli immigrati, lavoro per tutti, stop al precariato. A Viareggio funerali solenni per le vittime della stazione, bisogna fare chiarezza, dice il presidente Napolitano. Per 3 milioni di famiglie disagiate, sconto sulla bolletta del gas, insieme con il bonus sulla luce previsti risparmi fino a 380 euro. Migliaia e migliaia di fan a Los Angeles per l'ultimo saluto a Michael Jackson, cerimonia funebre nel cimitero delle star. Mi colpisce in questa vicenda il secondo titolo del TG3, avete sentito i cori contro i napoletani di Matteo Salvini and Company a un raduno leghista del 2009, e che forse Salvini, che ha tre cariche in questo momento, consigliere comunale a Milano, eurodeputato e deputato nazionale, appena eletto, non si rende conto di mettersi allo stesso livello di quelli che vanno allo stadio a insultare, allo stesso livello anche di quelli che vanno a fare le manifestazioni e magari strillano slogan contro la polizia o tirano i sassi alla stessa polizia. Il livello è esattamente quello espresso dal coro contro i napoletani, un coro vecchio di almeno 20 anni, qualcuno mi dice è stato tirato per la prima volta fuori nel Veneto. La patria, stiamo parlando delle curve, dunque di un'estrema minoranza, la patria di tutti questi slogan contro i napoletani, in particolare Verona, ma anche Padova. Alessandra Mussolini alla Camera, oggi sentite. Quello che noi abbiamo visto, noi deputati campani e napoletani, su YouTube, su un sito di Repubblica, lo possiamo dire, è vergognoso. C'è il disprezzo nei confronti dei napoletani, e quindi io sarò molto breve, perché non servono le scuse. Isso sa da sciacqua bocca quando parli nuia, e per dirglielo porterò al suo scranno, presidente, questo. Il disinfettante. La prego. I commessi, per cortesia, possono farsi consegnare gentilmente la collega Mussolini quel barattolo non ben identificato. Napoli mi la paura. La difesa di Salvini, che fra poco avremo al telefono, speriamo. La difesa da parte di un suo collega alla Camera, Riguzzoni si chiama, della Lega, che dice non è una questione politica che deve essere portata all'attenzione della Camera dei Deputati. Sarò lapidario perché ho più volte espresso che non condivido che su fatti di minor conto vengano create delle situazioni di allarmismo, perché poi l'allarmismo produce di per sé altri problemi. Questa volta ha fatto l'ennesimo errore, perché è un fatto privato, cioè io quella canzone non la conosco, ma potrei citare la memoria perché l'ho sentita 100 volte negli stadi. Non posso citare a memoria le canzoni che parlano dei milanesi, ad esempio, dei polentoni, però quello che è importante sono gli atti che vengono fatti, la legittimazione di un parlamentare della Repubblica lodando gli elettori, non certo le discussioni all'interno di quest'aula. Perché poi a tutto c'è un limite, naturalmente, perché avrà pure ragione Pier Gianni Prosperini, ex leghista, il leghista del PDL, ieri intervenuto nella nostra trasmissione quando ci ha detto: io odio la parola moderati, perché qualche volta non bisogna essere moderati. Però so, un coro da stadio così greve, ma non è tanto questione di coro greve, un coro di quelli proprio ripetuto dalla peggiore feccia di una curva da stadio. Prosperini. No, intanto io reputo il termine moderato un insulto, perché anche Gesù disse non siate moderati. Lei pensi, se lei avesse una figlia e le proponesse un fidanzato e le chiedesse informazioni di questo fidanzato e le rispondessero: è moderatamente intelligente, moderatamente capace, moderatamente abile, moderatamente onesto, moderatamente tutto moderatamente, come la prenderebbe? Che si l'impirla. Bene, 800 24 00 24, diciamo prima che non è la prima volta che esponenti della Lega vengono coinvolti in fatti di canti e di cori. Nel 2004 il ministro Castelli davanti alla Camera insieme ai giovani padani che intonava "Chi non salta italiano è", Bossi insieme ad altri ministri leghisti in Svizzera, era il 2005 credo, che furono coinvolti in una manifestazione in cui si inneggiava al tricolore bruciato. Massimo da Lecce, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Innanzitutto io, pur non essendo molto d'accordo con lei su molte questioni, io le devo riconoscere una certa, diciamo, onestà intellettuale. Lei ha una linea ed è fermo su quella linea, lo devo riconoscere. Molte volte mi trovo in disaccordo, però riconosco in lei un giornalista intellettualmente onesto. Grazie. Di niente. Che non significa avere una linea, perché io non ce l'ho una linea. Ma non una linea, cioè una sua, diciamo, un suo modo di esprimere le opinioni e di commentarle. Diciamo che, ripeto, non sono molte volte d'accordo con lei, però riconosco la sua onestà intellettuale. Senta un attimo, a proposito di questa storia di Salvini, eccetera, io sì, sono rimasto sconcertato da quello che ha detto. Io sono di Lecce e mi sento toccato da quello che esprime questo signore, di questo onorevole del nord, sui napoletani. Magari oggi i napoletani, domani i leccesi e un altro giorno qualcun altro. Io sono sconcertato, però ripeto, sono molto più sconcertato dalla giustificazione che dà l'onorevole, il collega onorevole di Salvini, non ricordo come si chiama, Riguzzoni. Sì, il quale dice che la legittimazione di un parlamentare della Repubblica lo danno gli elettori e non le discussioni all'interno del Parlamento. Questa è una cosa sconcertante, perché alla fine è come se dicessi: un dittatore, solo perché ha l'appoggio della popolazione, può fare quello che vuole. Quindi uno che poi bisogna vedere uno come ottiene i voti, però uno so perché viene votato dalla gente, è come se avesse un lasciapassare per dire e fare quello che vuole all'interno del penale, perché poi è chiaro che si gioca su questa. Qui non c'è nessuna, qui non c'è nessuna, nulla di ma qui non c'è nessuna cosa, qui non c'è nessuna cosa che riguarda il appunto, penale. Sì, sì, appunto, si gioca su questa falsa, diciamo, questione. Io non ho fatto nulla di penalmente rilevante, per cui sono onesto, cioè potrei dirle queste cose, potrei farle. No, no, ma ho capito benissimo, Massimo, la ringrazio. Il problema è che non si può pensare di dire non ha nulla a che fare con la politica. Quando uno è un deputato della Repubblica, va ad un raduno della Lega e si mette a intonare una canzoncina, immediatamente diventa politica quello che fa. Non c'è dubbio su questo. Altrimenti, cosa è politica se non questa? Un modo di esprimersi, un comizio, perché un canto e un coro è anche un comizio fatto durante un raduno. Se non è politica questa, non capisco. A proposito della vicenda del Guardian, un ascoltatore mi sprona, le critiche del Guardian all'organizzazione del G8 e anche la possibilità che l'Italia venga esclusa a favore della Spagna, è una notizia importante, naturalmente probabilmente c'è del vero nell'impreparazione di alcuni dossier. C'è anche la risposta di Berlusconi in questi minuti, proprio durante una conferenza stampa: grande cantonata, piccolo giornale, riferendosi al Guardian stesso. E voglio che ti voglio sulla te, e mocca tu stai qua, non saccia che già fa, si dà già fa, senti che sta canzone quando passava sto guaglione sul tanto nanna fa, dicendo piano piano, dicendo doce doce. Berlusconi and Apicella in napoletano. 1933 800 24 0024. Luca da Napoli, buonasera. Buonasera, senta, volevo fare una precisazione. Il coro è nato in una partita Napoli, o meglio Verona-Napoli, degli anni 80, in cui il Napoli vinse 3-0, e bei tempi sempre per noi napoletani di Maradona. La curva B di Napoli rispose con uno striscione molto sarcastico, scrivendo: Giulietta è una meretrice. No, è una zoccola, così. Così, lo so, così dire, recitava lo striscione. Lo dice, non mi permettevo. Io sono autorizzato a dirlo, ma in realtà è autorizzato a dirlo anche lei. Io aggiungo un'altra cosa. De Crescenzo, lo scrittore, ha aggiunto che quando i padani, i cosiddetti padani, erano ancora sugli alberi, noi eravamo già pederasti. Quindi se ne possono dire tante. La verità è che fa bene Salvini a dire queste cose, perché lui insulta i napoletani, Borghezio insulta i musulmani, e questa è l'espressione della Lega. Una divisione del lavoro, il 10% al nord significa il 30% di quelli che sono nella popolazione, ed è sintomo del degrado della società. Bah, quindi va bene così, sì. Siamo nella democrazia. Ma no, non è sintomo. Salvini può votarlo, lo voterà. Sì, ho capito. Sintomo del degrado della società mi sembra francamente eccessivo, Luca. Il 30% non sono due, Cruciani. 30% capito. Lei vuole ridurre il fenomeno della Lega al coro di Salvini. Questo non è, questo non secondo è così, me. Allora sarà la base, perché là il coro era la base della Lega, non sarà il 30%, sarà comunque una certa quantità di. Io conosco un sacco di gente che vota. Sono degradate mentalmente. Quelle persone che cantano quel coro e che intonano quel coro sbagliano a farlo, che siano degradate mentalmente non lo so, come erano degradati mentalmente probabilmente quelli che hanno fatto lo striscione Giulietta è una zoccola da questo punto di vista. Però ridurre tutto il fenomeno della Lega è una questione di goliardate, di, come dire, di mettere in moto un meccanismo antimeridionalista. Io non credo che possa essere ridotto a questo la Lega. No, ma io non voglio ridurlo a questo, io dico che però la base leghista sicuramente ha al suo interno questo tipo di sentimenti. Ma io conosco un sacco di che tutti i leghisti, no, capito, la pensano come Salvini o come Borghezio, però se Borghezio dice insulta i musulmani e tutti nella base, nel prato, là in Padania esultano, ci sarà pure qualcuno che sicuramente dirà: ma forse in effetti i musulmani, perché li dobbiamo insultare? E allo stesso livello esulteranno, la base leghista esulterà a sentire il coro di Salvini insultare i napoletani, poi ci saranno anche altri che diranno: no, in effetti questi napoletani, perché li dobbiamo insultare? Però le faccio però ascoltare, ho capito. Le faccio, io conosco un sacco di gente che vota la Lega abitando a Milano, e probabilmente alle persone che io almeno le conosco abbastanza bene non è mai venuto in mente di cantare un coro di questo tipo, né di avere idee, come dire, razziste sui napoletani. Le faccio ascoltare, però vorrei dare una risposta, quello che ha detto Antonio Di Pietro ieri sera in una trasmissione ad Iceberg, trasmissione che va in onda su Tele Lombardia, perché non è una canzone, è una cosa sul governo italiano adesso, una lunga sequela di insulti, se vogliamo, qualcuno li può interpretare come insulti naturalmente, sentiamo. Io sto contestando Berlusconi perché lo contesto per quel che sta facendo, per quel che non sta facendo e per come lo sta facendo. Io ritengo che sia un modello di governo piduista, fascista, razzista, xenofobo e di questo mi voglio occupare. È chiaro. Non del governo. Scusatemi, del governo puttaniere di Berlusconi, non me ne può fregare di meno. Mi interessa il governo razzista e fascista, fiduista, di questo mi occupa, perché questo fa male al paese. A un certo punto non ce la faceva nemmeno più con la voce a dirlo, fiduista, razzista, fascista, xenofobo. Ora le cose sono diverse, il paragone forse è esagerato, ma più o meno il linguaggio è lo stesso, Luca. Sì, però Cruciani, io intendo che dire questo, secondo me fa benissimo a fare questa cosa, perché lui sa benissimo di avere un ritorno elettorale, che poi è lo scopo di ognuno che... Ma è lo stesso di Pietro, però, lo stesso ritorno... di Pietro, ma poi ci sarà gente che lo voterà, gente che non lo voterà. Siamo in libera democrazia, ognuno fa quello che ritiene opportuno, però non si può contestare il fatto che Salvini dica i napoletani puzzano. Può dire quello che vuole, fin quando non compie un reato, per quanto faccia il parlamentare, poi dopo lui verrà di nuovo rieletto se gli elettori gli daranno il voto. Quindi fa benissimo a farlo. Lui insulta i napoletani, Borghezio insulta i musulmani e la Lega prende il 10%. Poi lei mi dice che non è tutta la Lega così, io sono d'accordo con lei, però sicuramente se vai negli altri partiti, in tutti gli altri partiti dell'arco costituzionale, nessuno la pensa come la pensano i leghisti. È l'unico partito che esprime questo tipo di politica, anche se nella base, anche se nel raduno, nella piaduna padana. Poi, se questa base vorrà rieleggere Salvini, fanno bene, Salvini li porterà avanti le loro teorie, porteranno avanti i loro interessi e andremo avanti così, la democrazia. La ringrazio Luca. La saluto. 1938 800 24 00 24, andiamo a Bergamo, dunque passiamo da Napoli a Bergamo. Luigia, buonasera. Buonasera, siamo da Bergamo. Sì. Allora, io vorrei dire che quando vedo alla televisione il fanno i vari servizi sulla Lega, mi vergogno di dire che sono di Bergamo, e quello che mi ripugna di più è vedere che tanti bergamaschi hanno votato la Lega. È una cosa, guardi, dico, vomitevole, anche perché voi dovreste venire a Bergamo quando fanno i comizi. Lei dice che sono poco educati, ma sono di un maleducato, io dico maleducato perché voglio essere corretta. Sono di un'ignoranza, guardi, l'ignoranza, io penso che è ben... Allora, se uno guarda un leghista, vede incarnata l'ignoranza. Vabbè, Luigi, adesso anche queste sono generalizzazioni, abbia pazienza. No, no, scusi, guardi, tutti quelli del governo, lei gli faccio una foto a tutti, io non ne vedo uno. Vabbè, Luigi, questa è una cosa lombrosiana, abbia pazienza. Si può criticare Salvini in mille modi, siccome non nel modo in cui lo sta criticando lei, non nel modo che leggo in alcuni messaggi. Allora, guardi. Se li dicessi, allora l'anno scorso mi sembra che l'Atalanta ha fatto il centenario. Allora no, che arriviamo c'è? Anche a queste cose. Si voleva fare una festa e non so, gli organizzatori hanno voluto invitare Gigi D'Alessio. Quello non l'hanno voluto perché non era del nord. Ma ci rendiamo conto dove arriva la loro intelligenza? È limitata. Vabbè. Però scusi, poi voglio arrivare alla fine del discorso. No, ecco appunto, arriva alla fine. Roma ladrona, perché qui in Bergamo sa tutti i tappezzati di Roma ladrona, Roma ladrona, però mi sembra che i soldi di Roma ladrona li vogliano e come. Va bene, diciamo, questo è un altro ragionamento, un ragionamento politico. Luigia, ho capito, la ringrazio. Roberto da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Io volevo portare al discorso una cosa meno gradevole forse, ma sull'incidente di Viareggio. Sì. Io sono un ingegnere chimico e mi sono occupato tutta la vita di sicurezza, e sentire dire continuamente, per esempio dal vescovo di Lucca, che questo trasporto è pericolosissimo e bisogna evitare questo tipo di cose, mi fa pensare a una grande disinformazione. Il gas viene trasportato in Italia da 54 anni in treno. In 54 anni c'è stato un incidente solo, quello di Viareggio. Senza togliere nulla alla tragicità dell'incidente, è uno dei trasporti più sicuri che esistano. Cioè, se dovessimo ragionare in questo modo, non dovremmo mai salire su un'automobile. Sì, no, ma Roberto, io le do ragione, per carità. Ma mi pare che le discussioni intorno al gas che viaggia sul treno, per carità, ci sono state anche queste in questi giorni, critiche al modo in cui... Addirittura il vescovo ha detto che bisogna evitare questo. Bisogna evitare, ma evitare vuol dire portarlo sulle autobotti, per strada, che è immensamente più pericoloso. E un'ultima considerazione è che forse questo dovrebbe invece farci pensare che tutti i discorsi sull'idrogeno, che è milioni di volte più pericoloso del propano, dovrebbero essere fatti con un minimo di considerazione su questo problema. Io francamente, se sapessi che un mio vicino di casa, io abito un condominio, si è comprato una macchina a idrogeno, cambierei casa. Perché? Perché sarei terrorizzato dal vivere con un gas compresso e non liquido in cantina, un gas che è il gas più leggero che c'è, per cui il minimo buco esce, e che è esplosivo con l'aria in tutte le proporzioni. Io mi sono occupato di idrogeno tutta la vita. L'idrogeno, ne porto i segni, cioè delle scottature da idrogeno, è uno degli oggetti più pericolosi che esistono. Vabbè, insomma, lei ci voleva dire sostanzialmente che tutte le discussioni che ha sentito intorno al trasporto di gas negli ultimi giorni sono discussioni campate in aria. Sì, che non tengono conto, l'unico modo per ragionare di sicurezza è la statistica, no? Certo. E poi bisogna purtroppo dire che è tragico, ma gli incidenti succedono. Se è caduto lo Space Shuttle due volte, che lo accarezzavano tutte le volte che partiva 50 ingegneri, e purtroppo gli incidenti succedono, fa parte delle umane cose. Bene, grazie, la ringrazio. Grazie a lei. Buonasera. Claudio da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Mi riferivo al discorso che ha fatto lei commentando il coro di quel signore della Lega. Sì. Volevo, giusto per dire, che credo che ci sia un po' di ipocrisia da parte di tutti questi personaggi, ma quando lei si dice che rappresenta la parte da stadio, la parte peggiore, questi personaggi sono eletti da quella parte, cioè rappresentano lo spirito della Lega, che parla la parte più retriva, culturalmente meno difesa, che quindi ogni tanto viene fuori. Non voglio dire che tutti i leghisti sono così, ma il nocciolo del discorso è quello, quindi non bisogna stupirsi, è gente così. Siamo in democrazia e si esprime così. Gente così come, scusi? Con i cori contro i napoletani, contro i meridionali. Mi sembra una cosa ovvia. Cioè, non è che tutti i leghisti si esprimono in questo modo, eh? No, tutti no, ma una buona parte. Cioè, la Lega raccoglie anche quell'elettorato. E quindi questi personaggi ogni tanto si mostrano per quello ma che sono. Ma guardi, Claudio, io sono di quest'idea. Una certa parte di elettorato estremista, ci sono estremismi e estremismi, c'è un estremismo di questo tipo con venature di antimeridionalismo, c'è un estremismo contro Berlusconi, c'è un estremismo contro i cosiddetti comunisti, diciamo, uso un'espressione magari impropria, ci sono tanti estremismi e convivono tranquillamente in modo trasversale in tutte le formazioni politiche. Per cui può dare più fastidio una cosa di questo tipo, ma sono estremismi, punto. Non è che albergano principalmente nell'elettorato leghista. Ma io dico semplicemente che queste persone raccolgono in buona parte quel tipo di sentimento di scarsa cultura, di tutto lì. Non bisogna stupirsi. Ma sa, qualsiasi estremismo di solito è figlio di una scarsa cultura, anche se. Certamente. Però nessuno si scandalizza quando su alcuni giornali vengono difesi i terroristi o quando magari si esalta l'uso della violenza, eccetera. Certo. Ripeto, l'estremismo c'è un po' dappertutto, però viene alla luce spesso e viene esecrato soprattutto quello leghista, da questo punto di vista non c'è dubbio. La ringrazio. E voglio sulla te, tu stai qua. Saccia caccia fa, si daccia fa, senti che sta canzone quando tu passavi sto guaglione sul tanto nanna fa. Eccoci qui con la pietra dello scandalo di oggi, quasi uno specialista di scandali recentemente, Matteo Salvini. Ciao Matteo, buonasera. Ciao, bella la canzone. Ti piace Apicella? Non è uno dei miei preferiti, preferisco qualcun'altra, però la canzone è simpatica. Allora, la premessa è questa. Io ho nei confronti di Matteo Salvini una sorta di debole, non dico di debole, però secondo me Matteo Salvini è una... Poi ci conosciamo, insomma è una persona che apprezzo politicamente, che penso che faccia un buon lavoro, una persona, un bravo politico, ecco. Questo, ciò non toglie che la pensi come lui su alcune cose e su altre meno. Come è venuta fuori questa cosa, Salvini? Innanzitutto, dov'era, che luogo era? Dove ti trovavi? È un sabato sera a Pontida, parlando di musica e di calcio. È una cosa che riguarda esclusivamente il calcio. Si sa che da tifoso ci sono pregi e difetti dello stadio, e questo è un coro che esisteva prima di Salvini, esisterà dopo Salvini, così come ne esistono su Milano, su Verona, su Bologna. Anzi, se aveste mandato in onda quello che io dico dell'Inter quando ci sono i derby Milan-Inter, nonostante la mia amorosa sia interista, rabbrividireste. Però difendersi dietro, no, difendersi, insomma, lo spiegare quello che è accaduto, cioè la diffusione su internet di questa roba e dunque gli interventi. Beh, un coro da stadio non è niente di più, niente però parlare di coro da stadio, non è che Matteo Salvini fa il militante. Matteo Salvini ha tre cariche in questo momento, che consigliere comunale a Milano, è europarlamentare e deputato della Repubblica, non è un cittadino qualunque. Sì, deputato della Repubblica non più, perché le due cose sono incompatibili. Comunque io faccio il parlamentare e come parlamentare ho contribuito a togliere l'immondizia dalle strade di Napoli. Se il sabato o la domenica vado allo stadio, parlo di calcio, parlo di Napoli, di Verona e di Genoa, mi tengo il diritto di parlare di calcio. Questo non è parlare di calcio, però. Ma questo fa parte degli sfottò che ci sono. Quando io ho seguito il Milan in trasferta a Napoli e a Roma, me ne sono sentite dire di tutte e di più, e ci sta, fino a che non ci sono episodi di violenza. Io vado allo stadio in curva spesso, da quando avevo 6 anni, non ho mai lanciato in campo neanche una monetina, una carta di caramella, però le rivalità dei tifosi del Milan sono col Napoli, ma col Verona, col Genoa, con la Juve. Se si rimane nell'ambito dello sfottò, finita la partita, amici come prima. Però tu insisti su questo, allora la ricanteresti questa canzone? Per esempio adesso me la ricanteresti? Adesso siamo in una delle radio più pregiate ed ascoltate, quindi ogni cosa a suo tempo. In un consiglio comunale non mi metto a cantare canzoni da stadio, neanche ospite del grande Cruciani su Radio 24. Alla prossima Milan-Napoli, o al prossimo Milan-Verona, o al prossimo Milan-Inter, se verrete con un microfonino ad ascoltare o origliare quello che si dirà in tribuna, rischiate di prendere qualcosa di... E dunque anche a un prossimo, magari a un prossimo raduno con militanti della Lega, come è stato in quell'occasione. Ma quello non ha niente di politico. Il coro prima, se qualcuno, quello che ha ripreso quel pezzetto lì, avesse ripreso 5 minuti prima, ci sono stati simpatici attacchi fra Comaschi e Varesotti, la cui rivalità sportiva calcistica risale nell'alba dei tempi e finisce lì. Però mi sorprende, per carità, insomma, capisco questo tipo di difesa, è una difesa che qualcuno può considerare magari efficace, poi difesa che rispetto ma a cosa? Non è che mi sia passato il pomeriggio a trovare una difesa, è quello che è. C'era una birra in mano in un sabato sera, parlando di musica, di calcio e di pallacanestro, cantando cose assolutamente sconvenienti se venissero cantate in una chiesa, ma che negli stadi di tutta Italia si fanno da 30, 40, 50 sì, anni. Sì, però Matteo Salvini capisce benissimo che un politico che va in curva a cantare un coro di questo tipo non è come un cittadino qualunque che va in curva a cantare un coro di questo tipo. Questo lo capisci benissimo. Se un dentista napoletano, un giudice napoletano canta Milano in fiamme, Milano in fiamme, cosa devo fare? Devo chiedere le dimissioni del giudice o del dentista? Ne prendo atto, sorrido e gli rispondo. E ripeto, è diverso un avvocato, un giudice o un dentista napoletano da un deputato della Repubblica o un europarlamentare o un consigliere comunale, no, o no? Se c'è da scusarsi, per carità di Dio, se chi non frequenta gli stadi, questi turpi ambienti o i palazzetti del basket e si è sentito offeso, gli porgo le più sentite e dolenti scuse. Detto questo, è qualcosa che fa parte di una sana, secondo me, rivalità calcistica. È uscito dallo stadio, si va a bere una birra con i tifosi del Napoli, così come con i tifosi del Genoa o del Verona, con cui ce ne diciamo di tutti i colori per l'ora e mezza della partita. Sì, diciamo che questi cori hanno fatto parte anche di un antimeridionalismo, e al contrario sicuramente anche di qualche espressione molto forte nei confronti di gente del nord, che hanno accompagnato anche delle violenze in curva per anni, diciamo, non ci si è limitati. Sì, quello va sempre distinto, ci mancherebbe. Io ripeto, le curve non le demonizzo, vado quando riesco, vado a vedere la partita in curva, altrimenti in tribuna, ma mai gettando neanche una cicca di sigaretta di fianco o in campo. Poi ripeto, dall'animo di tifoso becero che ho io, le cose più turpi le si sentirebbero e le penso quando il Milan gioca con l'Inter, che è milanese, che è milanesissima e padanissima, però è l'Inter. Dunque Salvini non riconosce la distinzione tra un tifoso ed un politico, cioè un politico può fare anche il tifoso alcune volte. In questo caso ti sei comportato da tifoso, è così? Assolutamente. Beh, c'è il politico che va, che va alla Scala, c'è il politico che gioca a ping pong, che fa pesca sportiva, e c'è il politico che va allo stadio, c'è il politico che magari è meno volgarotto di me, invece di cori da stadio dice accidenti, arbitro cornuto, non c'era fuorigioco. Ripeto, fa parte di un gioco, secondo me un gioco in quanto tale va. Ma non si dovrebbe limitare un politico da questo punto di vista? Secondo me sì, questa è la mia idea. Su questo non la pensiamo allo stesso modo. Cioè, vuol dire, Matteo Salvini che va ad una festa come era quella, e sa benissimo che è sotto osservazione, no? E dunque può intonare un coro in cui si dice che i napoletani puzzano, essendo anche deputato, europarlamentare, insomma, quello che vogliamo, o no? Oppure, insomma... è questo che vorrei sapere, non ti rendi conto che c'è un limite? Ma può darsi che tu abbia ragione, non pretendo di avere ragione, di essere sempre nel giusto. Ritengo che un politico vada giudicato da quello che fa e da quello che dice un sabato sera a mezzanotte, quando si parla di sport e di calcio e si lamenta il fatto che Berlusconi ci ha venduto cacà e non vinciamo più niente per i prossimi 10 anni. Mettiamoci anche l'alterazione da rosso nero e quindi secondo me ci sta tutto. Ci sono tanti napoletani che ci hanno chiamato, vuoi chiedere scusa oppure no? Oppure le scuse non c'entrano? No, guarda, ma ripeto, se ci sono napoletani che si sono sentiti offesi, chiedo scusa perché per Napoli penso che stiamo facendo tanto come governo, come Parlamento. Detto questo, li aspetto a San Siro per la prossima Milan-Napoli, che se non compriamo qualcuno mi sa che finisce male. Senza insulti però, Ma se è possibile... Sottovoce, porterò uno striscione napoletani birichini. Ma una volta hai portato l'immondizia, i sacchi di immondizia? No, i sacchi vuoti per fare la raccolta differenziata. Evidentemente sono serviti però come esempio, visti i buoni risultati. Salve, grazie. Le scuse buona ci sono data. State, le scuse ci sono state. Diciamolo, mi scuso, nel senso che quando queste cose diventano pubbliche, io non dico che in privato si può fare, uno può fare quello che vuole, quando queste cose diventano pubbliche uno deve dire, un deputato non dovrebbe apparire in questo modo. Cioè non è bello che un deputato sia, per carità, con la birra in mano, sì, perché sì, la birra la bevono anche i deputati e va bene, che sia in mezzo almeno a un... quella lasciatecela. No, quello sì. Con la birra in mano a intonare i napoletani puzzano, il colore. Era le cose, non è bellissimo, diciamo la verità. Ripeto, fosse una mia creazione, sì, sarei effettivamente da ricoverare, visto che è un qualcosa che si sente, purtroppo per fortuna, lasciavo di giudicare in tanti stati, così come se ne sentono sui milanesi, sui sandoriani, sugli atalantini o sui veronesi. Non è una questione etnica, è una questione che riguarda 22 che inseguono un pallone. Secondo me no, e su questo la pensiamo in maniera diversa. Comunque Padania is Italy, Padania libera? No, Padania is Italy. Io lo sai a che mi riferisco, Padania is per Italy. Per il momento, la maglietta, anche quella ho criticato, Padania is not Italy, toglila, per carità. Se vedeste Salvini, togli quella maglietta. Quando vado allo stadio inorridireste. Che bisogna fare? Ciao, ciao, buona serata. Buona serata. 19:55. 800 24 00 24. Adesso qualcuno arriverà e dirà: dovevi trattare male, ancora peggio, Matteo Salvini, o addirittura non hai fatto tutte le domande che voleva lui. No, io l'ho criticato, non bisogna fare così. Dopodiché che devo fare? Lo devo impiccare? Lo devo ammazzare? Deve essere espulso dal consesso civile? Non lo so, fate voi, può darsi. Rino da Verona. Sì, io, buonasera dottore, io sono Rino, sono a Verona, ma in realtà io sono napoletano e sono a Verona per lavoro. Per la verità mi sento parzialmente tranquillizzato rispetto al fatto che non mi possa essere notificato di qui a poco un provvedimento di espulsione, perché in quanto napoletano occupo in questo momento le terre padane. Io sono un dottore commercialista che tra l'altro ha interessi in Alto Adige e studio a Milano, quindi questa, se non altro, una parte del mio lavoro, come dire, è salva, perché l'onorevole ha detto che per lui, diciamo, non si ravvisa, come dire, una questione puramente di razzismo. per quanto riguarda le come dire, per quanto riguarda le scuse, credo che siano state in qualche modo estorte da lei. Ma è un po' estorte, insomma. Sì, se qualcuno si è offeso, dire, indotte, se qualcuno si è offeso, mi scusi. Le ha servito un assist e lui non poteva far altro che, come dire, in qualche modo mettere la palla in rete, perché poi tutto sommato... Poi scusi, scusi Rino, lei ha ragione, le scuse sono state un po' estorte, però a un certo punto ho chiesto a Salvini, sicuramente lei l'ha sentito, ma insomma, mi dica la verità, un deputato queste cose non le dovrebbe fare, lui là è rimasto un po' incerto, sì, forse hai ragione, eccetera, eccetera. TG5. Berlusconi, buoni auspici per il G8 anche dopo il vertice Stati Uniti-Russia. Ringrazio il Papa del lungo messaggio di apprezzamento per la scelta abruzzese. Ho il 64% della fiducia degli italiani. Un conto è la realtà, un conto le calunnie di certa stampa che non condizionerà il vertice. Tensioni a Roma, nessun incidente. Commozione e dolore a Viareggio, ai solenni funerali delle vittime della strage ferroviaria, il capo dello Stato fare chiarezza. Caritas in Veritate, l'enciclica sociale di Benedetto XVI incentrata sulla crisi mondiale, parla di etica nell'economia e di diritti nell'uomo. Tre stupri con lo stesso DNA, le analisi confermano a Roma un violentatore seriale, stessa dinamica, passamontagna sul volto e stessi comportamenti dopo le violenze. Per rispettare la legge che vieta di vendere alcol ai minorenni, i baristi devono chiedere i documenti, lo stabilisce la Cassazione. Evento spettacolare per l'addio a Michael Jackson allo Staples Center di Los Angeles, anche la bara d'oro del re del pop e 250.000 fan sul palco, i grandi della musica mondiale. Bene, andiamo al TG1, titoli. Berlusconi, G8 nasce sotto buoni auspici, la stampa estera non condizionerà i lavori, apprezzamento del Papa per la scelta dell'Aquila. G8 al via tra eccezionali misure di sicurezza, 5 francesi fermati all'Aquila, 10 arresti a Roma, Maroni, bloccheremo i violenti. La finanza senza etica crea povertà, nell'enciclica sociale il Papa chiede il lavoro decente per tutti e ammonisce, i migrati non sono merce. A Viareggio l'ultimo saluto alle vittime della strage alla stazione, Napolitano incontra i feriti e chiede chiarezza sulle cause. Stesso DNA per i tre stupri a Roma, al TG1 parla un super testimone, catturati in Romania, violentatori di Sesto San Giovanni. A Los Angeles l'addio a Michael Jackson, grandi star, decine di migliaia di fan e tanta musica per ricordare il re del pop. Eccoci qui, prima del telegiornale della 7, andiamo a Bologna da Daniele, buonasera. Buonasera Cruciani, come sta? Non c'è male, dica. È un piacere sentirla. Un appunto velocissimo sul caso di Federico Aldovandi, ragazzo di Ferrara, morto, il caso che è tornato alla cronaca ieri, mi pare, sì. Due giorni fa. Io sono un giornalista, all'epoca, poco dopo questo incidente, ricevo un fax da parte della prefettura di Ferrara, in cui si dice, ovviamente la comunicazione era per i mezzi di informazione, attenzione a fare ipotesi fantasiose su questo caso, non mancheremo di procedere se ci saranno fughe di notizie o chiacchiericcio, insomma inutile, adesso riassumo banalmente, ma insomma il fax era, sì, di quel tenore. Sì. Un pessimo segnale, in effetti l'unico effetto ottenuto è stato farmi pensare, evidentemente c'è stato qualcosa di poco chiaro, perché non vedo come si possa correre ai ripari se tutto è stato regolare. E in effetti, insomma, quanto sappiamo, abbiamo visto purtroppo, pare che qualcosa ci sia stato. Sì, anche se siamo al primo grado. Certo, ho sentito oggi alcune reazioni da parte dei legali, dei poliziotti. Certo. Non è, insomma, di dire la morte di Aldrovandi, un fatto drammatico naturalmente, non è ancora, le cause della morte non sono state ancora accertate definitivamente, il ruolo vero dei poliziotti, sì, ancora non è stato accertato definitivamente, certo. Quello che voglio dire è che lei si stupisce per la reazione che hanno avuto all'inizio le forze dell'ordine, soprattutto il prefetto, e tutti i corpi chiusi, tutti gli organismi di questo tipo tendono sempre a difendere e a difendersi, no? E a difendere i propri iscritti, ecco, dico così, in questo caso non si tratta di iscritti ma dei funzionari, questo mi sembra assolutamente normale. O no? Tutto qui. Non ho capito, sente, scusi. Cruciani? Sì, non ho capito, scusi. Dicevo, è evidente che in ogni gruppo sociale ci può essere qualche mela marcia ed è anche altrettanto evidente che un gruppo si autotuteli, no? Sì, certo. Come in questo frangente. Però le dico, il mestiere poi nostro è quello di verificare i fatti e di raccontarli se si sono verificati, ecco, non certo di inventarci dei finali diversi da quello che è possibile accertare. In più le dico, io ho valutato video, fotografie, insomma difficile che un ragazzo da solo si riduca in quel modo orrendo senza subire appunto violenze, poi magari da parte di altri, questo certo. Lo verificheranno. L'altra cosa velocissima, poi non le rubo altro tempo, mi sono preso la briga negli ultimi 2 o 3 giorni, sarà che ho un po' di tempo libero, di verificarmi, di andarmi a leggere circa 25 siti globali di informazione. Invito a questo esercizio anche chi ha tempo e voglia, magari connessione internet, proprio per andare a dare un'occhiata e cercare di capire qual è la descrizione, il profilo che viene elaborato del nostro premier all'estero. Ora, sicuramente qualche giornale, quelli di Murdoch o chi per lui, possono avere un interesse a rovinargli la festa del G8, però le assicuro che ho trovato cose divertentissime. Le suggerisco di rivolgersi in particolare al Time, dove c'è una divertente classifica delle sue gaffe proprio in ordine, con tanto di votazioni dei lettori, che è molto divertente e molto ironica. La cosa mi fa molto meno ridere se penso che ci rappresenta l'idea degli italiani in questo momento è come fanno a non rendersi conto che l'informazione è filtrata, questo lo puoi vincere leggendo gli articoli naturalmente, e l'altra considerazione è non si stupiscono di un comportamento del genere, ovviamente anche questo da verificare. E quale sarebbe l'informazione filtrata? Ma i corrispondenti in particolare le riporto una. Mi perdoni, mi sfugge il nome di un quotidiano australiano in questo momento, però insomma uno di quelli che mi ha più colpito era proprio il ragionamento del commentatore che diceva le notizie non vengono riportate in maniera chiara, come può il pubblico italiano non rendersi conto che le cose non vengono riportate? E lei è di questa opinione? Prego, mi scusi. E lei è di questa opinione? Beh, diciamo che insomma il Tg1 ha un po' addolcito la pillola, quando avesse avuto altre fonti avrebbe capito ben poco delle varie vicende, vere o presunte, però insomma da telespettatore, magari penso alla mia nonnina che è anziana, non ha internet e come riferimento ha il Tg1, qualche domanda se l'è posta, ma di cosa stanno parlando? Perché saltavano fuori smentite a go-go senza poi sapere il fatto in primis, quindi un po' divertente la situazione. Vabbè, poi può averlo fatto o meno, a me non riguarda. È l'idea che uno si debba imparare qualcosa dal proprio paese leggendo un cronista australiano che mi colpisce. La ringrazio. In questo paese c'è il massimo della libertà di stampa e di espressione, questo mi sembra chiaro, ogni volta ribadirlo mi sembra ridicolo dopo tutte le cose che escono in questi giorni. Poi lasciamo perdere il Tg1 lottizzato, la Rai lottizzata o la questione del conflitto di interesse o Mediaset, è un altro discorso, ma che ci sia libertà di espressione, che la libertà di stampa sia tutelata, che ci sia il massimo da questo punto di vista, non c'è il minimo dubbio. 20:07, titoli della 7. Viareggio saluta i suoi morti, applausi e lacrime davanti alle bare delle vittime della strage alla stazione. Migliaia di persone presenti. Per il vescovo la tragedia non è stata provocata solo dal caso. Il presidente Napolitano chiede che vengano accertate le responsabilità. L'Aquila blindata aspetta i grandi per il vertice che si apre domani. 5 francesi fermati vicino alla zona rossa. Tensioni e arresti a Roma durante una manifestazione di No Global. Polemiche tra governo e stampa estera sull'Italia e sull'organizzazione del G8. Solo calunnie attacca Berlusconi. Nuove regole per l'economia, no al precariato, un lavoro dignitoso per tutti, rispetto per gli immigrati. Il Papa pubblica l'enciclica sociale Caritas in Veritate. Da Ratzinger anche un attacco all'ONU e alle organizzazioni umanitarie che hanno promosso campagne in favore dell'aborto. A Los Angeles il funerale evento di Michael Jackson, 2 ore di show trasmesso in Mondovisione. Eccoci qui alle 28 minuti, la Zanzara questa sera fino alle 21, ve lo voglio ricordare, fino alle 21 dunque i vostri interventi, poi ci sarà uno speciale su Michael Jackson e sul funerale di Michael Jackson con Roberta Giordano. Andiamo ancora con una telefonata, poi la pubblicità e abbiamo un ascoltatore ancora da Napoli. Mario, questa sera naturalmente molte telefonate da Napoli, ne riceviamo sempre tantissime, questa sera sono un po' di più perché c'è il caso Salvini che canta un coro che spesso si sente negli stadi, purtroppo contro i napoletani, cose dell'altro mondo. Prego. Salve, buonasera Cruciani, pienamente d'accordo con lei ovviamente, e quello che volevo dire per quanto riguarda su quello che ha detto adesso, su quello che ha detto in questo momento, sul fatto che è vergognoso. Sono piena, diciamo, credo che sia. Veramente non ho detto vergognoso, però insomma, è una sua interpretazione, va bene. Insomma, ho detto vabbè, cose dell'altro mondo. Dell'altro mondo, va bene, uguale. Comunque, vabbè, trovo triste l'intervento di Salvini e quello che lui, diciamo, ha risposto. E a mio parere non si tratta semplicemente di un coro da stadio, ma io la paura mia, il mio timore è che comunque si tratti di un concetto in realtà che sia la base del pensiero leghista, un po' dell'ideologia leghista, magari non di tutti, ma sicuramente qualcosa. Cioè che Napoli sia un altro mondo, che il Napoli, la Campania del Sud sia un altro mondo. Ma sicuramente, diciamo, non è un movimento che nutre simpatia per le persone del sud, per i napoletani, e quindi non credo sia un caso, cioè non credo che sia un semplice tifoso del Milan che intonava appunto solo una canzone da stadio. Cioè dietro questo coro, secondo lei, c'è tutta una filosofia, un disprezzo nei confronti del sud? Sì, un qualcosa sicuramente che sta alla base dell'ideologia leghista, che sia, che abbia a che fare col disprezzo nei confronti del sud. Guardi che quel tipo di cori, che sono, ripeto, dei cori da stadio, vengono intonati spesso anche da persone del sud contro i napoletani per pura rivalità, eccetera eccetera, per cui non è che siano presidio solamente delle curve del nord. Sì, no, però io le dico una cosa, i cori da stadio cantati fuori dallo stadio. Per cui andiamoci stadio, piano col con l'antimeridionalismo, col disprezzo nei confronti del sud, non mi sembra di poter mettere in campo queste categorie, insomma. Sì, io però magari un coro da stadio, così, detto tra amici, anche con una birra in mano, eccetera, lo facevo onestamente a 20 anni, altrimenti i cori da stadio li dico nello stadio. No, no, ma lei ha ragione, questo è il punto, che lo fa un deputato, e un deputato è sempre un deputato, un consigliere comunale, insomma un rappresentante, un uomo delle istituzioni, un europarlamentare. Questo ho chiesto a Salvini, però Salvini ha detto io sono anche tifoso, e così è, alzo le mani e mi arrendo. Eccoci alle 20.13, 800 24 00 24, ancora con Matteo Salvini. Voglio capire la storia delle dimissioni, ti sei dimesso, Matteo? Pronto? Sì. Volevo sapere se ti eri dimesso da deputato oppure no. Sì, no, non certo per la vicenda di oggi, ma quanto perché domani c'è la scadenza per optare per il Parlamento europeo. Infatti avevo capito bene prima dal tuo intervento, cioè io avevo detto tu hai 3 cariche in questo momento, sei stato candidato al Parlamento europeo, dunque scegli il Parlamento europeo. Esatto, e quindi la legge, più che Matteo Salvini, giustamente impone di fare una delle due cose, non puoi stare in due parlamenti, quindi... Coincidenza vuole che oggi sia state depositate le dimissioni dal Parlamento nazionale. Dunque le dimissioni di oggi dal Parlamento nazionale di Matteo Salvini non hanno nulla a che fare con la vicenda del coro contro i napoletani, diciamo. No, ahimè le avrei dovute dare anche se avessi fatto un coro sui valdostani. Va bene, grazie. Grazie a voi. Abbiamo chiarito tutto questo perché è uscita 2 minuti fa un'ansa che recitava in questo modo: il leghista Matteo Salvini si è dimesso da deputato, lo si apprende in ambienti parlamentari, eccetera eccetera, ma poi abbiamo sentito dalle sue parole quello che è successo. Maurizio da Novara, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, grazie per l'ospitalità. Si può sicuramente criticare o stigmatizzare il comportamento dell'onorevole Salvini, ma a mio parere quello che non si deve fare è quello di dipingere la Lega o i leghisti come un partito, un movimento politico di persone ignoranti, becere, trive e quant'altro, e lei ha fatto bene a sottolinearlo, perché bisogna uscire da questo luogo comune, da questo stereotipo che c'è, che si cerca di appiccicare spesso, antimeridionalista, diciamo xenofoba e razzista. Abbiamo visto e constatato, e bisogna vivere al nord per capire questo, che la Lega ottiene sempre più consenso perché governa città, governa province e quindi governa anche quartieri dove spesso e volentieri ci sono anche meridionali come consiglieri di quartiere, consiglieri comunali e quant'altro, e governano città dove hanno un ampio consenso a 2 cifre, anche superiore al 30%, dove vivono tantissimi meridionali e contribuiscono alla crescita e allo sviluppo del nord. Questo non autorizza nessuno, Maurizio, naturalmente, quando uno ha una carica istituzionale, a mettersi a fare un coro becero di quel tipo, naturalmente, no? Ma certo, io vorrei ricondurlo al fatto perché, ripeto, come ho detto all'inizio dell'intervento, si può parlare di Matteo Salvini, si può parlare del suo comportamento, altra cosa è dipingere la Lega come un partito politico di persone incapaci, ignoranti e antimeridionalisti. Voglio farvi ascoltare 25 secondi, solo 25 secondi, di una canzone molto famosa, una canzone che testimonia di che cosa? Di una querelle, di uno scontro che ci fu molto forte nel passato tra Pino Daniele e il leader della Lega Umberto Bossi, ma in generale tra Pino Daniele e i leghisti. O Scarrafone, questa è la canzone. O Scarrafone. Insomma, avete sentito, questa Lega è una vergogna, è un passaggio di una canzone di Pino Daniele. Pino Daniele e Umberto Bossi arrivarono addirittura in tribunale, non sappiamo qual è, ci fu addirittura una condanna, credo, in primo grado per Pino Daniele, perché a un certo punto il cantautore napoletano se ne uscì con un mezzo insulto, con una frase molto pesante, un uomo di merda nei confronti di Umberto Bossi, quando seppe che Bossi aveva cantato alcune canzoni napoletane, prima Porta a Porta, poi addirittura in un ristorante napoletano, in una sua visita nel capoluogo campano. Claudio da Roma, buonasera. Claudio, mi sente? Dica. Sì, buonasera. Senta, io volevo intervenire su questa questione. Ha ragione quando dice Forza Vesuvio, Giulietta Mazzoccola sono la stessa cosa. Ha ragione. Anche perché rispondere ad una pernacchia con una pernacchia vince solo chi sa meglio le pernacchie. Sì. Ma chi non c'ha niente da dire si nasconde dietro queste cose. Assolutamente. Infatti, l'invito che io voglio fare a tutti gli amici ascoltatori, fuori le idee, fuori le gambe, fuori la testa, questo è il modo per rispondere davvero alle sfide che ci attendono. Seconda cosa, c'è l'argomento, io sono stato eletto dal popolo, quindi rispondo al popolo, eccetera, eccetera. E non è vero, perché c'è una legge elettorale che ci impedisce le preferenze. Quindi non queste persone, ma tutti, ovviamente, tutti i parlamentari sono stati eletti dalle segreterie dei partiti, quindi eletto dal popolo un fico secco. Secondo, io sono un 60 milionesimo del loro stipendio, come lei, come tutti quelli che pagano le tasse. Pretendo rispetto perché sono il loro datore di lavoro, come allora, lei, come tutti gli amici ascoltatori. Ma in questo caso cosa c'entra il rispetto? Mi scusi. Il rispetto di dire certe cose, ma questo vale anche per chi dovesse dire qualcosa di poco rispettoso nei confronti degli amici settentrionali o di altre, di altre etnie varie. Però non mettiamo sempre in campo questa storia degli stipendi. Appunto, o questa storia non c'entra niente. Perché chi vince, chi fa pernacchie, come dire, non si risponde con una pernacchia. No, ma quello è un ragionamento interessante. La ringrazio molto, Claudio. E rifacciamo sentire allora la performance di Salvini, che poi è stato nostro ospite, che si è scusato, ma anche no, e che poi si è dimesso da deputato perché doveva scegliere casualmente oggi tra deputato e parlamentare europeo. Ha scelto di diventare parlamentare, di restare al Parlamento europeo, scelta bizzarra rispetto ad altri colleghi, però nessun collegamento ci ha detto con questa vicenda. Salvini, la sua performance al raduno leghista di qualche mese fa. E via discorrendo, e via cantando. C'erano stati altri cori, dice Salvini, sono cori da stadio, non ha nulla a che fare con la politica, questa è la sua giustificazione. Poi io, quando gli ho chiesto, ma insomma lei fa il politico, non è che si può distinguere, un politico non è che può andare a fare i cori da stadio e fare chi non salta italiano o cose di questo tipo. E lui ha un po' balbettato, no, perché è bravo a parlare, insomma è rimasto un po' indeciso su questo. Pasquale Squitieri, eccoci qui, grazie di essere con noi. Inutile dire che polemiche sterili, che polemiche sterili, però significative, no, di che sono cosa? Sterili. No? No, non sono sterili, sono polemiche che danno esattamente la misura in cui vive la politica in Italia. Io sono stato senatore della Repubblica, sì, quindi un gradino superiore a Salvini, e quando sono stato senatore con tre Berlusconi, Dini e Ciampi, io mi sono imposto dei comportamenti perché ero in Senato per tutti gli italiani, io rappresentavo tutti gli italiani, mi spiego? Sì. Ora, questo cialtrone ha usato le stesse parole, gli stessi termini che usava Cialdini quando fu intere popolazioni del sud. Chi scusi, in Campania. Chi? Cialdini che fu mandato per l'antibrigantaggio poco dopo l'Unità d'Italia, giusto? Allora io dico una cosa, quando si ha un'ideologia come ce l'avrà questo Salvini, l'ideologia nasce dalla storia, ecco, noi abbiamo una storia, noi napoletani, che è 10 secoli avanti a quella dei padani, noi avevamo Virgilio che veniva a Napoli a scrivere l'Eneide, e poi a questo imbecille vorrei dire che il sapone l'abbiamo fatto noi nel sud, eravamo ancora Magna Grecia, utilizzando le scoperte di Galeno, le saponarie c'erano a Napoli, non c'erano. Però Scutieri, lei ha dato a Salvini del cialtrone, dell'imbecille. Un cialtrone è un farabutto razzista. Perché questi termini sono stati usati esattamente nel 1861 da Cialdini per definire i napoletani. Quindi è dall'Unità d'Italia che noi subiamo questo. Sia attento, perché è da questo razzismo che nascono le mafie, le camorre, le 'ndranghete, tutte quelle organizzazioni che per difendere il territorio in quel periodo, adesso non neanche da confrontare, si riuniscono, sono estremamente ramificate sul territorio. Però io non ne farei una questione. Deve stare attento questo studio. Perché deve stare attento? Che va in Europa e che non sa che la rivoluzione francese è stata fatta un secolo prima di quella che lui crede, capisce? Perché fa delle dichiarazioni che dimostrano soltanto una crepa nella democrazia. Purtroppo la democrazia. Ma lui dice che sono. Lui dice mandare un imbecille simile all'Europarlamento. Ma peggio di un imbecille. Questo è un criminale. Perché tutte le ideologie che nascono dalla storia, che lui non conosce, poi hanno bisogno di un nemico. Senza il Meridione Bossi non sarebbe lì, senza aver insultato il Meridione per anni ed anni ed anni, e io in Senato mi sono sempre trattenuto con un signore che si chiama Boso, un altro animale. Erminio Boso, lo ricordo che chiamava benissimo. Puttane delle senatrici, capito? Ma voi stavate, Scutieri, stavate insieme, lei più o meno è stato sempre simpatizzante del centrodestra, sempre alleato con Bossi, quasi sempre con Bossi. No, io ero del periodo in cui Fini diceva io con Bossi non prenderei neanche un caffè, perché stiamo parlando del 94. Sì. Oh, allora, siamo attenti, io sono stato senatore dal 94 alla fine 96. Quindi era il periodo in cui il partito che mi aveva portato in Parlamento aveva rotto con la Lega, vabbè, certo. Con la Lega non avevamo proprio niente a che fare, ma poi io come napoletano, come studioso e come cineasta napoletano, quindi come. Però lei non pensa, Scutieri, che gli insulti da questo punto di vista siano reciproci? No, non sono affatto reciproci. Noi napoletani, che siamo nati 5 secoli prima di Roma, noi napoletani non abbiamo mai insultato il nord, ma non ci è mai venuto neanche per idea. Noi napoletani avevamo il San Carlo quando al nord suonavano con gli organetti, noi napoletani avevamo le ferrovie quando questi al nord vivevano nelle però paure. Lei ne fa una questione di competizione. Noi napoletani abbiamo buttato fuori i nazisti, chiaro? Sì. Quando questi invece li rifornivano di armi e di cibo e di cose. Scutieri, lei ne fa una questione di competizione. Qui il punto, no, secondo me è molto semplice. Una questione politica. No, il punto è molto semplice. Allora, secondo lei, siccome lei reputa gravissime queste affermazioni di Salvini, cosa dovrebbe fare? Qualcuno si dovrebbe muovere qualcuno del PDL ad alto livello, oppure queste cose devono essere lasciate? Questo signore va cancellato dalle liste del Parlamento europeo. Vabbè, non si può fare, non è che è stato eletto, ha preso un sacco di voti. Una battuta così, che va avanti oramai da 15 anni, non è più sopportabile, perché non è una novità. Voglio dire, non l'ha detto un comunista questa battuta, non l'ha detta un fascista, non l'ha detto un socialista, non l'ha detto un democristiano, non l'ha detto un cattolico, l'ha detto un leghista, il quale si rifà come storia alla repressione di Cialdini, alla repressione del 1865. Con interi paesi come Casalduni, eccetera, fucilati completamente tutta la popolazione. Però mi scusi, Scutieri, non è più semplicemente un becero. No, mi scusi. Sono incazzato come una iena. So che lei è incazzato come una iena, però non è più semplicemente un becero coro da stadio che un deputato non dovrebbe. No, così voi lo salvate. questa è cultura, amico mio, e lei è un uomo di cultura, io la seguo sempre, e quindi sto parlando, io purtroppo esco fuori dai gangheri perché ho fatto più film su queste cose, eccetera, magari lei non ha visto i miei film. No, come no, li ho visti, io l'apprezzo moltissimo, selvaggia, non ha visto come siamo stati trattati noi meridionali nelle fabbriche del nord. Lei non cioè lei dice che dietro non esistono case ai meridionali, è a Torino che hanno fatto un ghetto per noi, le valette. Sì, certo. Un ghetto per i meridionali. Lei vuole dire che dietro questo coro ripetuto c'è una cultura antimeridionalista fortissima. E queste culture sono pericolosissime, come tutte le culture aggressive, creano il disordine e quindi creano la... Ma non aveva questo potere che c'ha l'America. Ma stiamo scherzando sul potere che ha la mafia nel mondo, in Italia, dappertutto. Li ha sentita loro con queste forme di razzismo a tutti i livelli, dagli ebrei agli arabi agli immigrati, eccetera. Perché qui si creano società di mutuo soccorso a Roma? No, ma ho capito, Squidieri, d'altra parte anche dal Parlamento, anche dal Parlamento europeo arrivano critiche, addirittura Mauro critiche che è una cosa. Arrivano critiche a quello che ha detto Salvini, per esempio un esponente importante del PDL come Mario Mauro, che è stato in corsa anche per diventare presidente del Parlamento europeo, sì, dice da Salvini pubbliche scuse è il minimo. Prima... No, perché lo salvate. E che deve fare? Si deve scusare, che si deve ammazzare? No, deve essere estromesso dal Parlamento europeo un parlamentare che usi questi termini nei confronti degli italiani. Io non lo so, ma siamo italiani o no? No, ma chi dice, dire... abbiamo fatto l'Italia, adesso dobbiamo fare gli italiani. Squidieri, ma non è possibile estromettere dal Parlamento europeo, lei lo sa bene, no? È impossibile. E perché no? E come se... ci sono... il popolo italiano. Ma ci sono delle procedure, è impossibile, o si dimette oppure non è possibile. E vede che allora arrivano le camorre. Vabbè, adesso la camorra è un altro discorso. No, è lo stesso discorso, io l'ho studiata per anni e anni, è lo stesso discorso. Tutte queste società così aggressive nascono dall'aggressività degli altri. L'aggressività della Lega va avanti da quando è nata. Non è che adesso la camorra non ha mica creato la Lega. Adesso, no, ma l'ha rafforzata, mi spiego? Cioè, se lei, la intellettuale quale è, fa un po' di studio sul tipo di società quale vivono le mafie, le camorre, cioè, per esempio la mafia, cioè lei dice, scusi un attimo, poi dobbiamo chiudere, beh, Squidieri, mi scusi un attimo, lei dice un problem, ho capito merda. Lei dice, ho capito benissimo, poi devo chiudere, lei dice la ghettizzazione, il trattare così il sud fa prosperare dal punto di vista, diciamo, certo, culturale la mafia, la camorra, eccetera. Certo. La ringrazio, certo, molto, buona serata, grazie, arrivederci. Tutti calmi perché questa sera andiamo fino alle 21, ve lo voglio ricordare, vostri interventi fino alle 21, poi ci sarà uno speciale su Michael Jackson e sui funerali di Michael Jackson condotto da Roberta Giordano, i titoli del TG2. L'ultimo saluto di Viareggio ai suoi morti, arsi vivi nel disastro ferroviario di una settimana fa, in 10.000 hanno seguito i funerali di Stato, Napolitano fare chiarezza. Tutta dedicata ai problemi sociali, la terza enciclica del Papa si chiama Caritas in Veritate e invita a ripensare il modello di sviluppo per superare la crisi globale. Il G8 dell'Aquila lancerà un'iniziativa per la fame nel mondo. L'annuncio è di Silvio Berlusconi, che precisa sarà un fondo da 15 miliardi di dollari. La costruzione di nuove regole finanziarie, un'economia etica e rispettosa dei paesi più poveri, l'impegno concreto da subito per un ambiente migliore, sono i tre capisaldi del G8 che si apre domani all'Aquila, l'ottavo di Silvio Berlusconi. Il TG2 vi spiega punto per punto perché mai come questa volta sono in gioco interessi planetari. Eccoci. Dove andiamo? Andiamo a Lorenzo da Napoli? No. Riprendiamo da una signora, Maria Elena da Milano, eccoci qui. Buonasera. Buonasera, prego. Sì, dunque, il mio intervento voleva riprendere un attimino il suo parallelo fra il coro da stadio, non da stadio, di Salvini e invece il, diciamo, confronto con quanto aveva detto Di Pietro la trasmissione Iceberg. Sì, no, per carità, non volevo, molti ascoltatori mi hanno scritto, lei fa un paragone, non c'entra niente, era un paragone di parole, di estremismi di parole. Ma vede, però, gli estremismi di parole bisogna pure vedere, al di là dei toni, che possono essere più o meno accesi, secondo me non è quello che fa il merito dell'intervento, è quello che è stato detto. La differenza fondamentale è che quello che dice Salvini si commenta da solo. Quello che dice Di Pietro invece mi sembra che se andassimo a prendere i provvedimenti del governo Berlusconi da quando è entrato in carica fino ad oggi, mi sembra che sia corretto. Certo, perché lei è una estimatrice di Di Pietro, dunque pensa che questo governo sia... No, su questo piano, non è questione di essere allo stesso piano. Non essere estimatori di Di Pietro per scusi un attimo, frasi. No, a parte che su questo c'è da discutere, ma una persona, un uomo politico, e dice questo qua è un governo piduista, fascista, xenofobo e razzista, abbia pazienza, non è un ragionamento, è un'invettiva. Ma guardi, non vado a prendere però soltanto i termini in sé per sé, vado a prendere... Poi i termini in sé per sé, che significa? Cosa? Io ho parlato del... Ma io conosce il piano rinascita di Licio Gelli, cioè quello a cui fa riferimento la P2. Sì, se lei si prende il piano rinascita di Licio Gelli, cui fa riferimento la P2, ci trova tutte le proposte di riforma del governo. Uguali, precise. Vogliamo dire che è xenofobo, non lo vogliamo dire, vogliamo ricordare preciso, quello che ha fatto identiche, rispetto ai barconi di immigrati che arrivavano verso l'Italia. Sì. Vabbè, lei vuole dire che ha ragione Di Pietro. Lei vuole dire che ha ragione Di Pietro. Non si mette a fare paragoni. Lei vuole dire Di Pietro ha ragione a utilizzare quelle parole, giusto? Come no? Non mi metta in bocca Di Pietro ha ragione. Mi metta in bocca il governo effettivamente è xenofobo. Beh, quando dice quelle cose. Oh, benissimo. Secondo lei questo governo, è piduista, fascista, razzista e xenofobo. Questa non è una questione di estremismi. Vede, lei deve prendere, per carità, le cose che vengono dette, non in quanto dette con toni accesi o con parole che a lei possono sembrare più o meno, diciamo, forti. Ma semplicemente il corretto di Salvini era un corretto che vogliamo dire che i napoletani quindi puzzano come i cani, il sapone non l'hanno mai conosciuto e che sono soltanto un popolo di terremotati. Questo è quello che dice Salvini, deputato, eurodeputato che l'Italia manda in Europa a rappresentare il paese, sì, un qualche migliaia di elettori, con cui lei ha, diciamo, teneramente, amichevolmente scherzato fino a poco fa. Lo adoro, lo amo, lo adoro, lo amo. È un grande problema suo, se purtroppo per lei, lo so, un problema. E poi volevo fare una precisazione, io sono una giornalista come lei, credo. Sì. E lei mi viene a dire che il prefetto rappresenta una corporazione, un gruppo chiuso, ma sta scherzando, il prefetto rappresenta il governo italiano su un territorio. Non ho detto questo. E lei minimizza la gravità del fatto che un prefetto faccia delle intimidazioni alla stampa, che mandi delle intimidazioni alla stampa sul territorio. Questa è una cosa gravissima e lei l'ha minimizzata. Io non ho minimizzato niente, lei non ha capito quello che dice. Ma come non ha minimizzato? Io ho capito quello che dice, lei cerca sempre di minimizzare tutto, ma qua non è che va tutto minimizzato in nome dell'essere moderati, adoro anche lei. Oltre a Salvini adoro anche lei. Non faccio niente con la sua adorazione, vorrei un po' di competenza. Mi dispiace, però, quando ti dicono le cose. Sono anche incompetente. Che devo fare? Probabilmente sì, mi dispiace. Sono incompetente, che devo fare? Cacciatemi. Lei c'è questo modo di fare. Cacciatemi. Però poi se uno va a scavare un attimino nel merito delle cose che dice, scopre che magari forse così tanto preparato. Andiamo a scavare. Andiamo a scavare. Lei mi deve dire perché il prefetto mi deve giustificare la sua frase. Guardi, io non mi ricordo nemmeno che cosa ha detto. Scusi un attimo, io non ho detto questo. Adesso sto scherzando. Se vogliamo essere seri, siamo seri. Io non ho detto affatto, non ho detto per niente che il prefetto ha coperto chissà che cosa o è una corporazione. Non ho detto questo, ho detto semplicemente che, due punti, ora così lei capisce più chiaramente quello che voglio dire, ho detto che tutte le istituzioni, i corpi chiusi come possono essere i militari, la polizia, generalmente di fronte a fatti di questo tipo tendono a chiudersi in se stessi. Questo succede naturalmente sempre in tutte le istituzioni, in tutte le democrazie. Poi naturalmente ci sono i magistrati, le indagini, i giornalisti, eccetera, che fanno il loro mestiere. E poi ci sono ogni tanto anche i processi che portano a delle condanne. Vede, se lei che è un giornalista mi viene a minimizzare una cosa così ma grave. Chi sta minimizzando? Io non ho minimizzato niente. Rappresentante del governo, quindi emanazione del popolo italiano. Ma non c'è niente da fare. Io non ho minimizzato. Ma io cerco di capire. Minimizzo. Acqua sul fuoco. Cioè, lei sta veramente. Non lo so. Non ascolta lei. Non come ascolta. Definire? Allora lei la sua corporazione non ci tiene per niente. La corporazione. E infatti, anche come tutte le corporazioni tendono a difendere se stessi. Spesso noi difendiamo i nostri colleghi. Io non lo faccio. Ma io non difendo me stessa. Io difendo la libertà di informazione. Se ci fosse un giornalista che non facesse il suo lavoro come sta facendo lei in questo momento, io mica la difendo a lei. E che cosa dovrei fare invece? Che io cosa dovrei che fare lei invece? Dovrebbe avere il coraggio di dire chiaramente che un prefetto, emanazione del governo. Ma io non so quello che ha detto. Non me lo ricordo quello che ha detto. come il prefetto. Ma quale intimidazione? Ma quale intimidazione? Vabbè. Perché quel ragazzo è morto, ammazzato da quattro poliziotti che l'hanno pestato. Sì. D'accordo? Vabbè. Quindi stiamo parlando di un 18enne che è stato ammazzato come un cane per strada dalla polizia. E lei mi viene a minimizzare il fatto che il prefetto copra la polizia che si macchia di un delitto di questo tipo. Ha fatto tutto lei. Me lo viene a minimizzare. Ha fatto tutto lei. Lei dovrebbe dire è una vergogna. Sì. Dovrebbe dire, ah, ci dà questa informazione, lei che è un giornalista di Ferrara, dovrebbe dire è una cosa vergognosa, dovrebbe essere acquisito, visto che c'è anche fra l'altro un procedimento in corso per i depistaggi che sono stati fatti riguardo la vicenda Aldovrandi, lei dovrebbe saperlo visto che è un giornalista. Sì. Allora lei dovrebbe dire questa cosa si va ad aggiungere, si dovrebbe andare ad aggiungere, grazie di avercelo notificato in redazione, si dovrebbe andare ad aggiungere al procedimento che è in corso per i depistaggi, questo dovrebbe dire. Sì. Io non è che difendo la, io no, colpa è straordinaria. Il fatto che lo faccia la polizia al suo interno in questo paese, dove infatti per i fatti del G8 del 2001 di Genova e tutto il resto viene fatta una disinformazione vergognosa da tutti, in questo paese il fatto che un prefetto si permetta di fare quello che è stato denunciato dall'ascoltatore e giornalista di Ferrara, lei dovrebbe condannare proprio se fosse veramente un giornalista e invece le lezioni di giornalismo vengono da lei. Lei evidentemente è molto brava a fare lezioni di giornalismo. No, per carità, io infatti prendo, mi inchino e di fronte a queste lezioni di giornalismo prenderò appunti, ho preso appunti durante questo suo lungo monologo, ha perché poi bene? Lei ho scritto è molto sicuro? Bene. Quindi sì. Chissà perché che però dalla prossima mi indignerò, puntata non sentirò degli svarioni incredibili. Infatti non sentiremo degli svarioni incredibili. Il fatto sta che durante quella vicenda di Aldovrandi, cara ascoltatrice, io ho chiamato un venerdì la mamma e lunedì dopo il prefetto, me ne sono occupato a lungo, per cui che lei mi venga a fare la lezione di giornalismo, guardi, lasciamo perdere, guardi, voglio essere molto gentile, voglio... Una cosa grave. Ma io non ho minimizzato nulla, non ho minimizzato nulla, lei non ascolta, questo è il punto. Lei non ascolta perché non ho minimizzato nulla e io non so nemmeno esattamente cosa ha detto quel prefetto. Mi limitavo a rispondere all'ascoltatore su un fatto generale che è il modo di comportarsi di un'istituzione come la polizia, sì, come i carabinieri, eccetera. Ma io non lo so quello che. Ma io non do retta, io non credo al 100%. A quello che dice una persona sempre, devo andare a vedere cosa esattamente disse quel prefetto. D'accordo, in questo allora avrebbe potuto e adesso dire, nel caso in cui ma io dico quello che mi pare, abbia pazienza, ma io dico quello che voglio, non dico quello che lei vuole sentire, io dico quello che mi pare, forse non ha capito bene questo punto. Sicuro, e allora l'unica io... cosa è che quando lei dice quello che le pare, ma... però lo deve dire in maniera, ma io non ho detto nulla perché non ho minimizzato nulla, perché non so quello che ha detto quel prefetto, per cui quando mi accerterò di quello che ha detto quel prefetto davanti alla stampa in occasione della vicenda Aldovrandi, quando mi accerterò di questo potrò dire esattamente sì, quello che ha detto il prefetto è una stupidaggine, una cosa intelligente, voleva minimizzare, voleva coprire, è un atto gravissimo, perché voleva coprire, lei mi dice le frasi esattamente che ha detto quel prefetto, me le ripete per favore le frasi che ha detto quel prefetto? Allora, il giornalista... No, le frasi che ha detto il prefetto, non l'ascoltatore. Sì, non mi interessa, lei mi deve dire le frasi del prefetto, non quello che ha detto l'ascoltatore, le frasi del prefetto, quali erano? Le frasi del prefetto, quali erano? È arrivata una dichiarazione dalla prefettura. Ma lei non lo sa, quali sono le frasi del prefetto? Locali di cercare di mantenere la questione in toni bassi. Questo ha detto il giornalista di Ferrara questo. Che l'ha chiamata. Ma che è un'intimidazione questo? Fosse vero che è questo, è un'intimidazione questo. Mantenere i toni bassi su una questione di questo tipo è un'intimidazione. Come la, che cosa pensa che le dica il prefetto? Le dica guai a chi parla? È chiaro che non dirà così. Si esprimerà in un modo diplomatico, ma sempre in modo allora guardi, per dimostrare lo sa benissimo come funziona. Quindi... Allora lo faccio giornalista, forse se mi dice sa benissimo come queste cose. Vabbè, sa benissimo come funziona, non credo che il prefetto faccia degli atti formali in cui diciamo si permette minacce ai giornalisti, dire, che fa? Esatto, con minacce aperte, però sappiamo che c'è un depistaggio in corso e mi sembra che i fatti potrà pure essere stato, non lo so, non mi sono addentrato nel dettaglio di questa vicenda, forse non ha capito bene, un attimo solo, c'è no, il traffico, un attimo. È veramente incredibile il fatto che un giornalista che ha lo spazio che viene dato a lei, adesso me lo toglieranno, se lei vuole me lo toglieranno, utilizzare questo spazio che gli ha dato per giustamente evidenziare denunziare il fatto che in Italia avvengono cose gravissime, fra cui appunto depistaggi su tantissime vicende, perché abbiamo visto quello che è successo. Senta, io utilizzo lasci perdere, mi lascia parlare un attimo, mi lascia parlare, sì. Che sta facendo un monologo da 10 minuti, per cui poi... Perché siccome qualcuno dice che in questa trasmissione non possono parlare persone che la pensano diversamente da me, questa è esattamente la dimostrazione del contrario. Su che cosa mi devo indignare o non indignare, lo lasci decidere a me, non lo decida lei su che cosa mi devo indignare. Io minimizzo, secondo questa ascoltatrice che ci chiama da Milano, Maria Elena, minimizzo sulla morte di Aldrovandi. Mi permetta, siccome è un'accusa abbastanza grave, Maria Elena, quella di minimizzare sulla morte di Aldrovandi, di un ragazzo in circostanze quelle che abbiamo letto, quelle che sono venute fuori dalla sentenza di primo grado nei confronti di alcuni poliziotti, minimizzare su una cosa di questo tipo è chiaramente una cosa molto grave, ma io non ho minimizzato su nulla. L'intervento prima di un ascoltatore che diceva di essere un giornalista di Ferrara sottolineava una frase che il prefetto avrebbe detto, non lo so, controllerò, non ho avuto il tempo di controllare perché mi sono occupato della vicenda Salvini, come lei ha potuto ascoltare, e non di questa vicenda qui. Il prefetto, una frase che avrebbe rivolto alla stampa locale, di non enfatizzare, di non calcare troppo su questa vicenda. Non so cosa abbia detto il prefetto, poi verificheremo e vedremo anche, controlleremo, perché ci fa piacere, naturalmente ci fanno piacere le sue sollecitazioni, controlleremo se effettivamente in questo periodo dalla morte di Aldrovandi in poi si siano verificate delle pressioni molto forti nei confronti della stampa, in particolare la stampa locale, da parte delle autorità di polizia, e che tipo di pressioni sono state fatte, perché poi dobbiamo andare sul concreto, no? Però insomma, francamente, Maria Elena, la minimizzazione e l'indignazione soprattutto, lasci decidere a una persona su che cosa si debba indignare. Questo, lei si indigna, guardi, su alcune cose, io mi indigno su altre, o non mi indigno per niente. Un attimino trasformando, sto come trasformando, sempre, sto raccontando che cosa ho detto. Non ho detto che lei ha minimizzato sulla morte di Aldrovandi. No, ho capito, sulle parole del prefetto. Che anche se lei ha detto che anche se fosse, si può comprendere il suo spirito di corporazione. No, io non ho detto questo, ma non ho detto questo, lei anche qui sbaglia. Non ho detto questo. Vabbè, non ha detto questo. No, lei, comunque io non ho detto voglio, questo, non abbia volevo pazienza. Appunto soffermarmi più che altro su questo, piuttosto che sempre sulla vicenda Salvini, che sulla quale anche dal mio punto di vista ha minimizzato, perché comunque ho minimizzato un europarlamentare che quindi rappresenta tutti gli italiani presso l'Unione Europea, presso il Parlamento dell'Unione Europea, si permette di dire che i napoletani puzzano come i cani, che col sapone non si sono mai lavati, eccetera. Lei dice addirittura che c'è un debole per lui, io più che difendermi per lei non so che è dirle. Un modo di giocare comunque, con un ospite, se lei non lo capisce io non ci posso fare niente, capisco, la mia trasmissione verità, è fatta in questo modo. Maria Elena, ecco appunto, questa è la differenza, vede? Questa è la differenza, vede? Quell'ospite non l'avrebbe mai invitato perché le fa schifo, perché le fa schifo, questa è la differenza, questa è la differenza tra la mia sensibilità. Per me è una persona che si permette, ecco, appunto, di questa. Dire che i napoletani puzzano come i cani e poi di venire anche a farsi una risatina dicendo vabbè, perché lei fa via. Il tifo è diverso. Era un corrotto da stadio, quando questa è una persona che rappresenta l'Italia presso sì, il Parlamento infatti europeo, e infatti l'ho criticato per questo. Incredibile. E infatti io l'ho criticato, io l'ho criticato per questo, ma non c'è bisogno di ma non mi fa schifo, ma io lo critico come voglio, ma lei non mi deve sinceri. Ma lei non deve dire a me come mi devo criticare una persona, abbia pazienza. Se non le piace il modo in cui critico una persona, cambi radio. No, però le posso far notare che è molto bonario con certe persone e con certe altre. Lei dice che non ha una linea, non ha una sua linea politica, eccetera, ma io penso che la sua linea politica ce l'abbia molto chiara, infatti, e che la faccia emergere in maniera un po' più, come dire, sottile, ma forse per questo un po' più penetrante. Quindi le do atto quantomeno di essere un abile dissimulatore da questo punto di vista. Anzi, sono un dissimulatore, poi... minimizzo, cioè, ma perché ascolta, questa trasmissione? Volevo, no, vorrei capire una cosa, Maria Elena, mi scusi, io sono... espresso un'opinione lei, un po' non ha, lei non ascolta. Che si possono sentire di solito, come? Dunque, lei ha detto di essere, appunto, ha fatto lezioni di giornalismo, dice di essere diversa da tutti gli altri che intervengono, dunque di essere un po' più, diciamo, più originale. Terzo, ha detto che io sono un dissimulatore e altre nefandezze di questo tipo. Ma perché ascolta questa trasmissione? Non è una nefandezza dire che è un dissimulatore, come no? Vabbè, insomma, con piacere, perché mi piace sentire il punto di vista di chi, diciamo, dire che è un dissimulatore è un altro discorso, e rendermi conto anche di come si muove in certi momenti, diciamo, l'informazione, cioè come passa. Non è che io non guardi la TV, guardo il TG1, guardo tutto, ascolto tutto, allora, leggo tutto quello che posso, quindi si figuri, non ho nessuna. Ma lei ha detto una cosa, lei ha detto una cosa interessante: ascoltare quello che non la pensa una persona che non la pensa come me. Può darsi che noi la pensiamo allo stesso modo, dunque non ci possiamo indignare per le stesse cose. Dunque, quando lei mi invita a essere più duro su certe cose e su altre no, sì, se la pensiamo diversamente, punto. Tutti dovrebbero essere duri, lo so, io penso di cioè, per esempio il rispetto di un popolo come può essere quello che occupa il territorio napoletano, secondo me sì, questo è una, come dire, condizione. Ma infatti ho detto che è sbagliato quel cioè, mica ho detto che Salvini ha ragione, mi scusi, ho detto che Salvini ha fatto bene, cioè, infatti mica ho detto che Salvini ha fatto bene, ho detto che Salvini ha fatto malissimo. E io l'ho anche detto, ho detto Salvini lei ha fatto male. Però dovrebbe dimettersi in un paese normale. Ma questo lo lasci decidere a lui, se si ma non è vero, ci sono fior di razzisti nel Parlamento americano. Fior di razzisti nel Parlamento americano, quelli che lei definirebbe razzisti che tranquillamente siedono alla Camera dei Deputati negli Stati Uniti. Prendo la nazione americana come un esempio infarto. No, ma lo lasci decidere a lui se si deve dimettere o no. Ha cantato, ha fatto un coro, è una questione che non ha nulla a che fare con la dimissione o non dimissione. È una questione politica. Ma guardi, io penso che ci sia molto. Lui rappresenta la Lega Nord è un partito che, diciamo, ha sempre affrontato la questione meridionale in un certo modo, vogliamo dire così. Allora, nel momento in cui l'eurodeputato Salvini viene a dire senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani, probabilmente, ecco, dovremmo capire che noi stiamo mandando queste persone in Parlamento dicendo sì vabbè, ma questo è un coretto, sì vabbè, ma quando Borghetto fa le sue sparate sono delle sparate un po' grosse, però non ha affatto detto che è un coro da stadio, anzi gli ho detto che la difesa, la sua difesa, sostenendo che è solamente un coro da stadio, è la peggiore difesa possibile. Lo vede che ho criticato Salvini? Però guardi, lei sa benissimo meglio di me che comunque l'ha criticato in maniera un po' bonaria. Ma io l'ho criticato come ho pensato che bisognava criticarlo. Lei pensava che bisognava criticare in un altro modo, io invece l'ho criticato in quel modo lì, punto. Ma io avrei condannato totalmente questa cosa. Ma io l'ho condannata, ma che cosa vuole? L'ho condannata apertamente. E soprattutto non avrei messo lei non l'avrebbe invitato, ha detto. Quello che ha detto Salvini alla stregua di Di Pietro per dire sì, ma vedete che gli opposti estremismi stanno... Guardi, il discorso sugli estremismi, il discorso, assolutamente sì, il discorso sugli estremismi lo confermo in pieno. Il discorso sugli estremismi lo confermo in pieno. Ci sono estremismi ed estremismi. C'è l'estremismo di Salvini che canta il coro da stadio contro i napoletani, c'è l'estremismo di altre persone. L'estremismo si annida nell'estrema sinistra, come nell'estrema destra, come nella Lega. Ma come io le ho fatto notare, se lei prende il programma Rinascita della P2 di Licio Gelli. Vabbè, ancora questo programma della Rinascita di P2 di Licio Gelli. Ma cosa vuole che le dica? Lei dice che con la P2 di Licio Gelli dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere con la P2 di Licio Gelli, chiudiamo. Grazie Maria Elena per questi 20 minuti che ci ha dedicato, è stato molto simpatico, lei è molto simpatica, molto carina, molto gentile, ma dobbiamo chiudere perché ci sono i funerali di Michael Jackson, condurrà Roberta Giordano uno speciale dopo il GR delle 21, la Zanzara Etta, Radio 24.it, ci sentiamo domani 18.30.